a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuova puntata di A Regola d'Arte, ben trovati da Francesco Galante. Anche oggi trattiamo un argomento di assoluto interesse. Parliamo del voucher babysitter. Adesso capiremo qualche cosa di più con la presidente di Confartigianato Donne Impresa di Padova, Anna Parpagiolla, che è al telefono con noi. Benvenuta. Grazie. Allora, signora Anna, diamo subito questa buona notizia, perché c'era una disparità di trattamento tra le lavoratrici dipendenti e invece chi ha un'impresa artigiana, insomma, che è possessore di partita IVA. Spieghiamo intanto che cos'è il voucher babysitter. Allora, il voucher babysitter è una battaglia che Confartigianato ha portato avanti per le imprenditrici artigiane, conquistando il diritto di coniugare attività di impresa e impegni familiari. È un voucher, è un contributo che viene chiesto per un importo di 600 euro mensili, che potranno essere richiesti dalle mamme in sostituzione del periodo di congedo parentale, ovvero per i 3 mesi di astensione facoltativa dal lavoro. Questa era una cosa che le imprenditrici autonome non avevano ottenuto quando c'era stato il voucher babysitter per le lavoratrici. Ecco, quindi interessante capire questo, cioè una mamma che ha partorito, che dovrebbe starsene tranquillamente a casa con il proprio bambino, magari proprio avendo un'attività imprenditoriale non può fare questo, e in sostituzione del periodo di congedo parentale può richiedere questo importo di 600 euro mensili che servirebbero in qualche modo a pagare una babysitter. E pagare una babysitter oppure usufruire dei servizi della rete pubblica o privata dell'infanzia, esempio asili nido. Sì. Sì, noi donne imprenditrici arriviamo al 9° mese, lavoriamo sempre e non avevamo mai nessuna possibilità di contributo a parte un tot di mesi dopo la gravidanza. In questo modo abbiamo più la possibilità di poterci gestire anche i nostri figli, anche in parte di tempo nell'arco della giornata, ma nel periodo in cui noi dobbiamo comunque lavorare, almeno abbiamo questo contributo. Certo, è una cosa che era giusto che ci fosse, quindi grazie alla richiesta di Confartigianato questa cosa è stata presa e valutata e alla fine siete riusciti ad ottenerla. Sì, è stata una grande battaglia, perché in effetti sono stati stanziati per l'anno 2016, che sta finendo, 2 milioni di euro nel patto di stabilità, e per gli anni 2017 e 2018 sono stati stanziati 10 milioni di euro. Quindi, insomma, ringraziamo per questo, anche se il periodo è breve, perché 3 mesi sono pochi, ma è già un grande vantaggio per le donne che vogliono anche avere figli, perché altrimenti si fa fatica a gestire il lavoro con i figli e con i costi, naturalmente. Assolutamente, anche perché sappiamo, credo che l'esperienza sia di molti che hanno bambini piccoli, e sappiamo cosa vuol dire portarli a un asilo nido, e quindi anche i costi sono decisamente elevati. Sono altissimi. In altri paesi, fortunatamente per quei paesi, c'è un'altra situazione. Allora, sicuramente in Italia non c'è una situazione che agevola le mamme, per niente. Questo assolutamente no, e oltretutto c'è sempre stata una grande disparità tra il lavoratore dipendente e l'imprenditore o il lavoratore autonomo. Infatti. E quindi è già un successo quello che siamo riusciti ad ottenere. Ecco, allora, se qualcuno volesse ulteriori informazioni, so che è possibile contattare il patronato INAPA al numero, sì, 049 82 06 382. Sì, infatti, per le persone che vogliono sapere come fare questa richiesta, l'Unione Provinciale Artigiani, la Confartigianato di Padova, ha attivato, è già attivo il patronato in APA, ma si occupa anche di questo al numero che lei ha detto, 049 820 6382. Ci fermiamo un attimo per un brano musicale e torniamo tra poco. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Ancora insieme con A Regola d'Arte stiamo chiacchierando con Anna Parpagiolla, presidente di Confartigianato Don Impresa di Padova, e abbiamo quindi raccontato questa bella situazione che sta evolvendo con i voucher babysitter, la possibilità quindi di chi ha un'impresa di poter ottenere un contributo per pagare babysitter o i servizi della rete pubblica o privata dei servizi dell'infanzia in sostituzione alla fruizione del congedo parentale. Allora, prima abbiamo detto che avete raggiunto un bel traguardo con questa cosa, che c'è una certa difficoltà proprio come costi anche per quanto riguardano gli asili nido, e c'è anche un'altra cosa che volevamo evidenziare, il fatto che c'è una difficoltà negli orari degli asili nido. Sì, c'è una difficoltà negli orari degli asili nido perché naturalmente un'impresa proprio per per la gestione del proprio lavoro e per sopperire ai costi, naturalmente deve lavorare molto di più. Di conseguenza molte volte gli asili nido fruiscono di orari dove l'imprenditrice non riesce a gestirli e poter lavorare tranquillamente, perché ci sono degli orari fissi negli asili nido, soprattutto quelli pubblici. Orari e costi anche che sono elevati, e questo in effetti è una, questo riguarda anche i lavoratori oltre che le imprenditrici, ma naturalmente il fatto di avere una conciliazione maggiore anche gestita dal pubblico sarebbe molto favorevole. Speriamo che in questo si riesca a migliorare. Dovrebbero garantire sia un'agevolazione nei costi, sia un'agevolazione anche negli orari, perché alcune imprese, parliamo un po' dei servizi alla persona, hanno degli orari dove non si finisce alle 5:30 o alle 6 di sera. Ci sono certe attività che chiudono alle 7:30, alle 8, alle 9. I centri commerciali dove ci sono all'interno dell'attività hanno lo stesso problema, perché chiudono alle 10 di sera. Non dico che gli asili nido debbano essere aperti, rimangono aperti fino a quest'ora qui, però almeno una agevolazione nell'orario sarebbe molto favorevole per le imprenditrici. E aggiungerei anche un'agevolazione nei mesi estivi, che è un grosso problema anche quello. Assolutamente sì, perché le attività attualmente nei mesi estivi lavorano anche nel periodo di agosto, di luglio e di giugno. Di conseguenza tante volte alcuni asili vengono chiusi per 1 o 2 mesi, e a quel punto la gestione è molto più difficoltosa. Volevo dire un'altra cosa, che comunque la Confartigianato sta anche cercando di trovare delle soluzioni per questa conciliazione. Stiamo facendo dei percorsi proprio per cercare di capire com'è possibile, come si possono aiutare le imprese che hanno, dove ci sono delle donne giovani che hanno voglia anche di farsi una famiglia senza trovarsi sempre sotto stress o sotto impegni eccessivi. Certo, grazie quindi a questa bella iniziativa, alla battaglia di Confartigianato. Saluto la nostra ospite al telefono, Anna Parpagiolla, presidente di Confartigianato, donna impresa di Padova. Grazie a voi, vi ringrazio tantissimo. Chiudiamo il nostro appuntamento con A Regola d'Arte, con la segnalazione di SOS Energia. Vuoi migliorare la gestione dei consumi energetici? Affidati a SOS Energia, il servizio dell'Unione Artigiani che ti aiuta ad avere le migliori condizioni dai fornitori del mercato libero. Grazie al CAEM, il Consorzio Artigiano Energia e Multiutility, promosso dalle associazioni di Confartigianato del Triveneto, sono state sviluppate mediazioni utili a ridurre del 17% il costo dell'energia, nonostante l'aumento delle tariffe. Con il CAEM, infatti, si è voluto creare un unico organismo in grado di rappresentare gli interessi delle imprese socie, garantendo un maggior potere contrattuale nelle trattative con i fornitori del mercato libero. Invia quindi la tua bolletta comprensiva di dettaglio al fax 049-8206-400 o via mail a energia@upa.padova.it. Riceverai l'analisi comparativa dei risparmi possibili grazie alle condizioni rese disponibili dal CAEM. Finisce così la nostra puntata di Tracce di Musica. Grazie per l'attenzione, alla prossima settimana. Un saluto da Francesco Galante. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.